So it's time for breakfast. Quindi adesso è ora della colazione. And our practice in eating is very important. La nostra pratica durante l'atto del mangiare è molto importante. Eating presents us with our problems around pleasure. Perché il fatto di mangiare ci presenta i nostri problemi che riguardano il piacere, intorno al piacere. I'll only give simple instructions this morning, but more detailed instructions before lunch. Quindi stamattina vi darò delle brevi istruzioni, poi saranno più dettagliate prima del pranzo. So we want to deconstruct what we are experiencing to see how we create a mental state. Quindi vogliamo in qualche modo decostruire, si dice così, cioè, quindi distrutturare tutto il processo di quello che stiamo facendo in modo da comprendere gli stati mentali. And there are three major things to begin to distinguish. How many did you say? Three. Ci sono tre cose principali che vogliamo cominciare a distinguere. So first of all, there's the process of tasting. Innanzitutto c'è il processo del gustare. So as you put the food onto your tongue, put your attention right there. Quindi quando mettete il cibo sulla lingua, ponete la vostra attenzione proprio lì. And just experience the whole process of tasting and chewing, etc. Quindi fate esperienza proprio di questo processo del gustare, del masticare e via di seguito. When that is clear to you, quando questo vi è chiaro, become aware of the atmosphere that you've created around it. Diventate consapevoli dell'atmosfera che avete creato intorno a questo processo. So this is the emotional value you're putting to eating. Questo è il valore emozionale che state ponendo all'atto del mangiare. I'm presuming it will be happy. Io suppongo che sarà felice. There are some people who have difficulties with eating. Ci sono persone che hanno delle difficoltà riguardo al mangiare. And have negative states come up. E ci sono degli stati negativi che sorgono. So if these come up, you also realize that they are coming up because of the tasting process. E anche in questo caso vi rendete conto che sorgono a causa di questo processo del gustare. So these two processes, the physical and the mental, are constantly going on. Quindi questi due processi, quello fisico e quello mentale, avvengono continuamente. The one reacting on the other. Uno reagisce all'altro. Now, there is something in that which we call desire. All'interno di questo processo c'è qualcosa che noi chiamiamo desiderio. So now we have to create the right relationship to food. Dobbiamo creare la giusta relazione con il cibo. So we tend to seek happiness in food. Noi tendiamo a cercare la felicità nel cibo. And to form a relationship with it of in a psychological dependency. Quindi sviluppiamo una relazione che è come fosse una dipendenza psicologica. So when we feel a bit down or a bit anxious, we put a biscuit in the mouth. Se ci sentiamo un po' giù, un po' ansiosi, allora ci mettiamo in bocca un biscotto. So we have to have a better relationship with food. Dobbiamo sviluppare una relazione migliore con il cibo. Which is to realize that food is just medicine for the body. Quindi dobbiamo renderci conto che il cibo è solo una medicina per il corpo. It's to nourish the body. Per nutrire il corpo. The fact that it tastes nice is secondary. Quindi il fatto che abbia un buon gusto è secondario. We can still appreciate a pleasant taste. Possiamo ancora apprezzare un buon gusto. But not to seek happiness there. Ma non dobbiamo cercare lì la nostra felicità. Then we don't get this psychological dependency. A questo punto quindi non si svilupperà questa dipendenza psicologica. So when you're sitting in front of your food, Quindi quando siete lì seduti davanti al vostro cibo, just feel the relationship, you see. Sentite la relazione che avete. And then make an intention, intending to eat. E poi notate l'intenzione, intenzione di mangiare. And see if you can use these little noting words. E cercate di usare queste etichette mentali. So moving, touching, lifting. Quindi muoversi, toccare, sollevare. Mm. And then as you bring the food to the mouth, you see, tasting. Poi man mano che portate il cibo alla bocca, notate gustare. Mm. And then just stay with the process of eating, see? E rimanete con questo processo del mangiare. You can even intend to swallow. Potete anche esprimere l'intenzione di deglutire. It doesn't have to be automatic. Non è necessariamente automatico. And then when the food drops, you see, just wait. Poi quando il cibo va giù, semplicemente aspettate. And then we have more. E poi sorge questa voce interiore che dice ancora. See? So then you have to make an intention again, intending to eat. Poi di nuovo un'intenzione, intenzione di mangiare. Mm. And make sure you put the spoon down, or the knife or whatever, in between bites. Quindi assicuratevi di posare la posata tra un boccone e l'altro. Mm. Don't have the next mouthful ready, eh? Quindi non siate lì pronti con il boccone successivo. So it's just an opportunity to see how we relate to the sensual world. È un'opportunità che per vedere come noi ci relazioniamo con il mondo sensoriale. Ah. Then after we've eaten, there may be some time where we have nothing to do. Quindi dopo colazione potrebbe esserci un periodo in cui non abbiamo nulla da fare. Mm. So these are very dangerous times for us. E sono dei momenti molto pericolosi. Because the mind goes here and goes there. La mente va di qua e di là. So you have to always give the mind something to do. Quindi è necessario dare sempre alla mente qualcosa da fare. One thing is to practice the abiding in the present moment, which we did in the standing meditation. Quindi una delle cose che si possono fare è questo dimorare nel momento presente, che è quello che abbiamo fatto nella meditazione in piedi. Mm. And you can walk gently around the property. Potete camminare tranquillamente nell'area del centro. Mm. And if you put your attention to the left, it helps the thinking mind stop. Se ponete l'attenzione alla vostra sinistra, questo aiuterà a fermare la mente pensante. This is a little trick I myself discovered. È un piccolo trucco che ho scoperto io stessa. Well, because our language is on the right brain, on the left brain rather, on the right side, if you put your attention on the left side, it quietens the thinking mind. What's not this, the language did you say? Well, language is left, is on the right hand side. Sì, perché la parte del cervello preposta al linguaggio è sulla sinistra, quindi governa la parte destra delle azioni, diciamo, la mano destra. E quindi se poniamo l'attenzione sulla sinistra è come se interrompesse il flusso del pensiero. Mm. Especially hearing. Soprattutto l'udire. Then in the work period, this is a meditation in action. Poi c'è il periodo dei lavori e questa è la meditazione in azione. Now when we're sitting, we develop this observer, this feeler, the one who knows. When we're in meditation. Quando siamo in meditazione, noi sviluppiamo questo osservatore, la persona che colui o colei che sente, che percepisce, che ode, che sente. It's as though there's always somebody there watching. È come se ci fosse sempre qualcuno lì che osserva. Now when we're working, we're not trying to observe ourselves doing something. Mentre stiamo lavorando, noi non stiamo cercando di osservare noi stessi che facciamo qualcosa. Mm. Self-awareness arises naturally. Perché questa autoconsapevolezza sorge naturalmente. But we don't want to develop that. Ma non lo vogliamo sviluppare. We want to put our attention onto what we're doing. Vogliamo porre l'attenzione su ciò che stiamo facendo. And we want to lose the sense of self because we're so concentrated on what we're doing. Vogliamo perdere questo senso del sé perché siamo concentrati su, su ciò che stiamo facendo. So if you're washing pots, for instance, your attention is with your hands. Quindi se state lavando le pentole, l'attenzione è sulle mani. If you're sweeping, the attention is at the end of the brush. Se state spazzando in terra, l'attenzione è sulla scopa. And if you pass a period of time when there's nobody sweeping, there's just the sweeping. Quindi se arrivate al punto in cui accorgete che non c'è nessuno che sta spazzando, c'è solo il spazzare. And the job is done well. E il lavoro è fatto bene. So this is meditation in action. Questa è la meditazione in azione. Okay. So here we have three exercises this morning. Quindi ci sono tre esercizi stamattina. First of all is to deconstruct the process of eating. La prima è quella di destrutturare il processo del mangiare. How to use times when we're doing nothing in a skillful way. Come usare bene i tempi in cui non stiamo facendo nulla. So in daily life there are many times when we're waiting for the bus, we're walking upstairs. Nella nostra vita quotidiana abbiamo tanti di questi momenti, no, in cui stiamo aspettando l'autobus o salendo le scale. And meditation in action. E poi la meditazione in azione. Okay. Do you have the recording of that? The instructions. Yes. Yeah, but I can read it out. I think last time I read it out. Do you prefer that? I mean, it's very slow. That's all right. The recording. How long does it take? An hour. 50 minutes, maybe. That's all right. No, that's right. Okay. So the next sitting.